24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra. In primo piano in questa edizione le parole del presidente della BCE, le proposte per la crescita di 7 paesi dell'Unione, ma ancora anche il voto in Francia e la crisi di governo in Olanda. In apertura dunque le parole del presidente della Banca Centrale Europea. La maxi iniezione di liquidità triennale della BCE alle banche, ha detto Mario Draghi, è stata studiata apposta per scongiurare una stretta creditizia. Pertanto, in ultima analisi, gioverà all'economia reale. Con due lettere in risposta alle interrogazioni degli europarlamentari Mario Borghezio e Francisco Sosa Wagner, il presidente della BCE ha anche ricordato che la Banca Centrale non può imporre restrizioni, scrive, su come le istituzioni finanziarie utilizzino la liquidità fornita nelle operazioni di politica monetaria dell'eurosistema. E torniamo in Italia, l'Europa, il futuro e l'attuale crisi economica sono stati i passaggi centrali del messaggio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per le cerimonie del 25 aprile, giorno della liberazione. Sentiamolo. Le difficoltà attuali del nostro paese, pur poste al centro di politiche rigorose avviate in questi mesi dal Governo e dal Parlamento, richiedono anche una nostra seria iniziativa a livello dell'Unione Europea, perché in quella sede si operino riequilibri e si adottino indirizzi essenziali per promuovere crescita e occupazione in tutta l'area dell'euro. Ma non si attenui in noi la consapevolezza dei nodi che ci tocca sciogliere, tra i quali certamente quello del pesantissimo debito pubblico accumulatosi nei decenni e mai fatto oggetto di una decisa, costante, sistematica azione di abbattimento, innanzitutto attraverso la complessiva riduzione e insieme la razionale selezione e riqualificazione della spesa pubblica. E anche l'Italia, appunto, c'è tra i 7 paesi europei che hanno presentato proposte nell'ambito dei negoziati per il nuovo bilancio pluriennale dell'Unione 2014-2020. Obiettivo: migliorare l'impatto della spesa comunitaria sulla crescita e l'occupazione, pur con le limitazioni imposte dalla crisi. Il non-paper, sottoscritto dai paesi amici di una spesa migliore, come si sono autodefiniti, è stato presentato in occasione del Consiglio Affari Generali ed è stato sottoscritto, oltre che dall'Italia, da Austria, Germania, Finlandia, Francia, Olanda e Svezia. E siamo alle borse, le piazze europee mettono a punto il rimbalzo dopo le cadute di lunedì. Le borse europee hanno chiuso in forte rialzo dopo lo scivolone della vigilia, sostenute anche dal buon andamento di Wall Street e dai dati macro positivi provenienti dagli Stati Uniti. Milano, dopo aver azzerato i guadagni a metà seduta, ha terminato in crescita del 2,5%, una giornata vissuta all'insegna della volatilità. Nervoso l'andamento dei bancari, mentre si è allentata la tensione sul mercato dei titoli di Stato, con il differenziale BTP-Bund tedeschi in calo sotto quota 400 punti base. A Piazza Affari le migliori sul FTSE MIB sono state Ferragamo più 6,5% e Fiat più 5%, in attesa quest'ultima dei conti trimestrali che verranno approvati giovedì. Bene Pirelli più 4,6%, premiata dai risultati oltre le attese della concorrente francese Michelin e della joint venture in Indonesia. Ha recuperato ST più 2,6% dopo il meno 14% della vigilia e la pubblicazione dei conti. Tra i titoli negativi, la peggiore sul paniere principale è stata Autogrill, meno 2,5%. Livia Zancanera da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Ma anche la crisi di governo in Olanda e l'ipotesi che il socialista Hollande diventi il prossimo presidente francese influiscono sulle piazze europee e potrebbero aver avuto un'influenza sulle perdite di lunedì. Non saranno i mercati a decidere il voto, ha detto da Parigi Hollande. Le elezioni presidenziali francesi sono sulla bocca di tutti a Bruxelles. Da un lato il successo ottenuto dal leader del Fronte Nazionale, Marine Le Pen, fa temere un'ondata di populismo euroscettico anche in altri paesi della zona euro. Dall'altro ci si interroga sulla politica economica francese e se la vittoria finale dovesse andare al socialista François Hollande. L'austerità verrà abbandonata come molti temono? Quanto l'uomo politico francese vorrà rimettere in discussione la gestione comunitaria della crisi? Alla Commissione c'è l'impressione e la speranza che la strategia del candidato Hollande sarà diversa dalla politica del presidente Hollande. più accomodante, meno controversa. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Al voto francese guarda con interesse anche il mondo politico italiano. L'ex premier Silvio Berlusconi così ha commentato il primo risultato al microfono di Elisabetta Fiorito. Stiamo lavorando in effetti a un programma, a una proposta che ha molti contenuti veramente innovativi. Ma si va a votare a ottobre? No, una delle ipotesi possibili potrebbe essere questa. Io ho detto che dobbiamo tenerci pronti anche in questa eventualità. Come commenta il voto francese a proposito di voto? Beh, in Francia si è delineata una situazione che è pressoché uguale a quella che c'è in Italia. Hollande ha prevalso di un punto su Sarkozy, i nostri partiti qui in Italia sono nella stessa posizione e anche per quanto riguarda il centrodestra, sommando i voti di tutti i partiti del centrodestra, si arriva in Francia a una maggioranza del centrodestra esattamente come succede qua in Italia. Quanto all'Olanda, invece, il primo ministro dimissionario ha proposto il 12 settembre come possibile data del voto. L'economia vacilla, l'occupazione sotto pressione e il debito pubblico cresce a una velocità che non possiamo sostenere. Questi sono fatti, nessuno può ignorarli. Così l'ex premier olandese Mark Rutte si è rivolto al Parlamento dell'Aia per convincere le forze d'opposizione ad approvare misure anti-deficit da 16 miliardi di euro. Misure che riducano il disavanzo dal 4,6% del PIL previsto per il 2012 e 2013 al 3% richiesto dall'Unione Europea. L'ex primo ministro si è dimesso dopo lo strappo del populista ed euroscettico Geert Wilders, contrario ai tagli che a suo dire danneggerebbero la crescita e aumenterebbero la disoccupazione. L'obiettivo di Rutte è trovare un'intesa al più presto per assicurare i mercati e dare un segnale di stabilità alle agenzie di rating, poi andare alle elezioni anticipate il 12 settembre. Intanto l'Olanda ha collocato titoli di Stato a 2,25 anni per 2 miliardi di euro, registrando un buon andamento dei tassi, segno che gli investitori continuano ad avere fiducia nei fondamentali del paese. Eliana Di Caro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo ora in Ungheria, potrebbe essere vicino ad una svolta il negoziato per il prestito che Budapest vorrebbe dal Fondo Monetario Internazionale e dall'Unione Europea. Prestito, lo ricordiamo, bloccato da gennaio per 3 procedure di infrazione. Il presidente della Commissione Europea Barroso ha infatti apprezzato gli impegni presi dal primo ministro Orban per garantire l'indipendenza della banca centrale. Ora in Ucraina, dove la leader dell'opposizione Yulia Tymoshenko ha iniziato uno sciopero della fame nella carcere di Kharkiv, dove è detenuta. Sulla situazione dell'ex premier, che vuole denunciare la repressione politica subita, dice: la Commissione europea ha chiesto alle autorità spiegazioni urgenti e la possibilità che persone indipendenti, secondo la sollecitazione del commissario all'allargamento, possano incontrarla. E siamo ad una sentenza della Corte di Strasburgo che potrà avere ricadute su molti paesi europei. Per l'alloggio ci deve essere lo stesso trattamento tra i cittadini dell'Unione e quelli soggiornanti di lungo periodo. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione in relazione ad un'azione legale avviata da un cittadino albanese residente a Bolzano. Il ricorso è scattato poiché la provincia ha deciso nel 2009 di utilizzare un metodo di calcolo diverso per la distribuzione del sussidio casa, a seconda cioè si tratti di cittadini dell'Unione o di paesi terzi. E siamo al caso Repsol, che ha contrapposto Spagna e Argentina. Secondo il commissario europeo al commercio estero, Karel de Gucht, la decisione di nazionalizzare la compagnia petrolifera YPF, controllata dalla spagnola Repsol, avrà conseguenze di lunga durata per l'Argentina. Era questa l'ultima notizia di questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.